Da Ermanno Cavazzoni, Gli scrittori inutili, prima edizione Feltrinelli 2002, capitolo 17. Gli scrittori, per principio, si odiano, però non riescono a staccarsi l'uno dall'altro. Li si vede anche camminare a braccetto come inseparabili amici, invece si odiano. Li si vede al caffè fare circolo, sembrano di buon umore, invece covano pensieri di distruzione reciproca e annichilimento. Uno scrittore un giorno entrò nel caffè e vedendo i colleghi pensava morissero tutti, però agitò la mano per significare salute a tutti, amici. Gli altri gli fecero posto stringendosi, ammiccando, come per dire tu sia il benvenuto, ma pensavano: che viene a fare costui? Che cosa vuole? Oppure, rompicoglioni! Questo è il solito rompicoglioni! Così lui si sedette con l'aria di gradire moltissimo la compagnia e di averli tutti assai cari, specie i due di fianco, che prese per le spalle cameratescamente, però pensando, maledetti scrittori perditempo avvinazzati. Gli altri a loro volta pensavano, ci mancava quest'altro, morisse ammazzato anche lui, mentre i due di fianco che gli avevano fatto posto affabilmente tra sé e sé pensavano, ma chi lo voleva? Questa faccia lessa, questo menagramo. Però gli versarono da bere con molta allegria e bonomia, come per dirgli: brindiamo all'amicizia eterna, ai nostri ideali di schiettezza e di arte. In realtà pensando che ti possa affogare, bastardo. E gli altri del tavolo levando a lui il bicchiere: fallito, scrittorello dei miei coglioni, ma stattene a casa, ritirati, impiccati. Oppure: crepa, bestione, o anche sfracellati te i tuoi scritti e perfino imbrattacarte, scribacchino, poetucolo, analfabeta. Naturalmente lo scrittore appena arrivato si era alzato in piedi con aria euforica ed espansiva, ma avrebbe voluto dire: questa è un'accolita di buoni da niente, questa è una tavolata di millantatori, di ipocriti, luridi, senza talento, scopiazzatori. I colleghi nello stesso momento levarono i calici in segno di giubilo. Ti si schianti la lingua, merdoso, crepa, coglione. Non lo dicevano, però era quello che veniva a tutti da dire. Poi seguirono le consuete conversazioni intellettualistiche sui librai e sui libri, sulla sintassi e sui refusi, sulla libertà e sulla libertà di punteggiatura. Ma se qualcuno mangiava un'oliva, qualcun altro pensava che ti possa strozzare. Se qualcuno mangiava un'acciuga, ti si pianti in gola. Seguirono quindi dei brindisi e i tipici pensieri augurali. Sparati, accoppati, piccatevi tutti. Poi altri brindisi, cornuto, bestia, carogna, canaglie, farabutti, fascisti. Dopo di ciò, al terzo giro di brindisi, le maledizioni si erano un po' indebolite. Qualche scrittore ancora pensava: siete dei bischeri, degli stracciamarroni, siete i soliti cappellatori discutibili da sopportare. Ma al quarto giro non c'era più nessuno che facesse tali pensieri. Scherzavano, si tiravano i noccioli, gli stuzzicadenti, i fiammiferi accesi. Qualcuno propose un quinto giro di brindisi. Qualcun altro fece vedere com'erano i passi del mambo, mentre i più facevano musica con i bicchieri, coi tappi, con la carta stagnola, dando fastidio per via del chiasso e del buon umore a tutto il caffè. In particolare al titolare, che li vedeva arrivare ogni giorno a metà pomeriggio, prima meditabondi, un po' tirchi e formali, poi chiassosi come un asilo infantile. Infine, gli scrittori uscirono in strada tenendosi sotto braccio come quando erano entrati, ma con la differenza che adesso si tenevano sotto braccio per sincera stima reciproca e si davano pacche allegre sopra le spalle per augurarsi di tutto cuore una buona serata e più in generale successo, salute, prosperità. Uno studioso appostato nei pressi non noterebbe la differenza tra lo scrittore prima e lo scrittore dopo la seduta al caffè, perché differenza non c'è. E tuttavia la differenza è profonda, come tutti gli scrittori sanno. Ad esempio, lo studioso preferisce stare nascosto o camuffato ad una certa distanza, perché se mai capitasse tra gli scrittori riuniti, verrebbe deriso, anche offeso. Vatti a far fottere te e la tua razza! Malmenato in certe turbolenti riunioni, messo a sedere senza calzoni su una candela e poi buttato fuori come non si butta neanche il letame. Lo studioso non lo capirà mai, eppure tutto questo significa che gli scrittori gli vogliono bene.